Siamo con lo scultore Patrick Alò per parlare un po' della sua opera. Come la definiresti? Sostanzialmente sono ammassi di ferraglia, rifiuti di ferro ammassati in forme che richiamano in particolare al classico, comunque a figure molto riconoscibili, più possibilmente armoniche e appunto quindi in contrasto con la natura del materiale che è, come dicevo, è quanto di più orribile, appunto, un rifiuto, un vero rifiuto di metallo, parti meccaniche, macchine, motori assemblati nel tentativo di creare un'immagine armoniosa, il più possibile riconducibile alle forme classiche, a quello che è l'immaginario, comunque quello che è la nostra conoscenza dell'arte, in particolare quella classica comunque. Senti, partiamo a questo proposito dalla tua formazione. Ma ho avuto la fortuna di avere l'arte in casa, questo Ecco. sicuramente, nel senso che mia madre è pittrice, è venuta a studiare all'Accademia di Belle Arti in Italia dal suo paese d'origine, dal Libano, e quindi ha sempre vissuto, diciamo, l'arte con l'occhio, e quindi io con lei da piccolo ho sempre visto l'arte con l'occhio di uno straniero, e quindi con immensa ammirazione. Io ho ben presente, cioè, tutte le volte che comunque andavamo in giro, stavamo insieme, intanto lei mi portava a vedere i musei, a vedere le opere d'arte, e poi lo fa, già è particolare perché insomma chi vive a Roma in genere tende a disertare comunque il proprio patrimonio. Invece lei aveva questo grande trasporto e me l'ha trasmesso. Io quindi sono cresciuto con questa adorazione, però da cittadino di Roma, quindi avevo tutta la possibilità di godere di questi tesori, in più però se avevo la capacità di apprezzarli, perché appunto vivendo a Roma spesso e volentieri non si ha né il tempo né la voglia né di apprezzare queste cose, perché insomma frastornato da tutto, Sì, insomma è sì. difficile, però sapendolo cogliere si vedono delle cose magnifiche, però appunto cose magnifiche incastonate in una struttura, in un'architettura prevalentemente mostruosa. E quindi questo forse è il paradigma che ha un po' partorito, diciamo, il La tradizione. mio modo di vedere arte, sì. Quindi sì, questo complesso dinamico, o magari statico, spesso più delle volte, di strutture dove appunto l'archeologia vera era a sua volta sovrapposta da archeologia industriale, Sì. e quindi questo sicuramente è stata la La scintilla vera, commistione sì, urbana. assolutamente per me, perché io poi ho vissuto queste due componenti, appunto nella prima infanzia per me esisteva solo arte classica e quindi la divoravo, e poi diciamo in età più adolescente invece la passione per l'archeologia industriale, quindi tutto quello che riguardava sia a livello di immagine che a livello proprio di vita vissuta reale, quindi con le varie occupazioni, quindi riutilizzo effettivo di luoghi abbandonati, Dismessi. dismessi, queste due componenti poi si sono naturalizzate in me e hanno creato questo mostro. Senti, da queste basi c'è comunque la scelta del liceo artistico. Sì, beh, certo, io vedevo il liceo artistico come Naturale. sì, una cosa ambitissima. Da piccolo mi ricordo, non vedevo l'ora di andare. Primo giorno di scuola, al primo liceo, mi presentai un'ora prima, sono stato davanti alla scuola, ci è voluto un'ora prima che arrivassero gli altri. Cioè, io ero proprio entusiasta. E poi ho capito che c'era, che non era reciproco. E quindi piano piano, chiaramente, diciamo che la fortuna dell'andare al liceo artistico era la possibilità di incontrare più persone interessanti. Ecco, questa è stata la grande ricchezza, perché se no, appunto, come insegnamento, poco, cioè aule chiuse, aule didattiche sperimentali, tutte sempre serrate, con i quattro gessi, sempre gli stessi professori inadatti, spesso anche, cioè, traumatizzati, mi ricordo alcuni proprio deliravano, alcuni erano da ospedalizzare, invece le insegnavano comunque. E quindi ti ripeto, più che altro la possibilità di incontrare persone interessanti, giovani come me, che io ho imparato più da miei coetanei nel fare a gara chi disegnava meglio, così, che non proprio a scuola. E poi comunque sempre a casa, sempre madre pittrice, risposata con un altro pittore, quindi mio padre comunque una persona molto stravagante, a suo modo anche lui un artista, quindi diciamo un ambiente comunque stimolante a casa. E poi ho cercato gli stimoli dappertutto, appunto nelle persone, quindi poi negli ambienti della sinistra extraparlamentare a Roma, e sicuramente lì ho fatto il mix. Ecco, infatti il primo approccio con la scultura è collettivo e anche sulla scia dell'esperienza anglosassone dei mutoid, si può dire, no? Sì, poi infatti lì, proprio a Roma ho visto arrivare questo baraccone, cioè abbiamo visto insomma tutti un gruppetto di persone, amici, ci siamo appassionati dopo aver visto uno spettacolo dei mutoid, che erano questa, si può definire, diciamo, una compagnia circense che ha mutato e mutuato l'immaginario di Mad Max, di queste visioni post-apocalittiche, di un futuro post-apocalittico nel quale la nostra generazione, direi che appunto quella degli anni 70-80, nati negli anni 70, era abituata a questa visione del mondo che stava per finire per via della guerra fredda, che comunque insomma terrorizzava un po' tutti, così. E si cominciava a ipotizzare, a immaginare nell'estetica e nella pratica, diciamo, un futuro post-apocalittico, visto che comunque sembrava inevitabile che ci sarebbe stata, insomma, un'apocalisse nucleare. Mm-hmm. E quindi si immaginavano questi mondi, in questo caso era più una questione estetica, e appunto si manifestava in questa forma questi performers che mettevano in scena questo mondo fatto di maschere, di armature composte di parti metalliche, carter, di motorini che facevano queste battaglie all'arma bianca, oppure con macchine, con draghi ricavati da escavatori che prendevano al volo 500 in fiamme, Fiat 500 in fiamme, le lanciavano così, vabbè. E questa estetica chiaramente molto, molto rozza, io ho cercato di farla mia, ho cercato di appunto di trovare il contrasto piuttosto nell'armonia, quindi cercare di renderla efficace, questa, diciamo, poetica, nel contrasto con una forma estetica essenzialmente pura o comunque ricercata, diciamo. Allora, i modelli in questa tua rivisitazione sono soprattutto figure animali o derivate dalla mitologia greca e romana? Come mai questo doppio binario? Ma il tema centrale per me è la natura. Io sono per un'arte che coltiva il bello, cioè contrariamente a molte correnti, no, contrariamente, cioè mi distingo semplicemente, non è che sono in contrasto con nulla. L'arte contemporanea si concentra soprattutto sul concetto, sull'approfondimento di certe idee, e io mi concentro ancora in maniera forse reazionaria, non lo so, però ancora su quello che è l'idea di bello, che appunto suona molto reazionario, però secondo me non lo è, anzi oggi parte appunto corsi e ricorsi, quindi tutto, non c'è niente di più nuovo di una cosa vecchia, quindi sempre insomma, i soliti discorsi, la ciclicità delle mode, eccetera. Però effettivamente oggi abbiamo, secondo me, io almeno ho bisogno di un'idea di bello che rimetta al centro l'uomo nella natura, questo è prevalentemente. Perché secondo me il nostro gusto nel vedere il bello è proprio questo, riconoscersi e risuonare della natura, cioè rivedersi in qualche modo e fare da riverbero delle bellezze della natura. Questo è fondamentalmente quello che io penso che sia l'arte, cioè noi celebriamo la natura e la riproduciamo nelle sue bellezze, quindi in qualche modo appunto risuoniamo con essa e con le sue bellezze. Questo è fondamentalmente quello che secondo me antropologicamente abbiamo fatto il primo giorno che abbiamo cominciato a fare arte, e a me piace vederla ancora così. Non perché non siano validi tutti i discorsi delle avanguardie, ma perché oggi, secondo me, io almeno ho bisogno di vederla così, ho bisogno di questo tipo di arte, ho bisogno di vedere una cosa, di vedere ancora il bello dell'essere esseri umani. Cioè, secondo me, noi odiamo ormai l'essere umano perché abbiamo visto soltanto le cose negative, ci siamo anche forse psicanalizzati un po' troppo, qui anche forse l'eccessivo uso dell'arte concettuale, cioè, che va benissimo, ripeto, io adoro l'arte concettuale, se è fatta bene, però appunto un eccessivo uso poi porta a paranoie e quindi fino ad odiare forse l'essere umano. Invece io mi concentro su quelle che sono ancora le armonie che ci sono tra noi e la natura, ma anche tra noi e le nostre mostruosità, per cui appunto fare delle opere con i nostri rifiuti serve un po' in qualche modo ad esorcizzare noi ed esorcizzare anche i rifiuti, levare il male che c'è in entrambi, Senti, negare proprio l'idea di male. in che rapporto è la creazione con la fruizione per te? Nel senso, in che rapporto è la tua espressione nell'opera d'arte rispetto a quello che vuoi comunicare a chi la fruisce? Se viene prima uno, un bisogno, poi l'altro, in che rapporto stanno? In stretto rapporto, sarebbe come dire che se è nato prima l'uovo o la gallina, è molto difficile stabilirlo. Di sicuro nasce, cioè chi fa arte, quindi diciamo è l'uovo sicuramente, nasce prima, perché credo di sì, credo che sia così, che nasca prima il bisogno di celebrare appunto il bello, comunque l'arte, la natura. E poi dopo viene la fruizione, nel senso che comunque chi fa l'opera d'arte, mentre fa l'opera d'arte, almeno io in quel momento sto comunicando, io mi sento di essere in comunicazione con voi, sto cercando di dire qualche cosa in qualche modo. Quindi sono io che lancio un appello, l'artista che lancia un appello, certamente. Senti, qual è poi il percorso, se è intenzionale, se è casuale, cioè il momento, sei stato per lungo tempo all'ex convento Santa Maria del Giglio a Bolsena, che ha funzionato da grande laboratorio per il tuo lavoro. Da lì in poi è stato tutto intenzionale, casuale, se ti stai dirigendo da qualche parte rispetto a quello che produci? Ma io credo di affinare, adesso sto affinando praticamente la mia ricerca, non credo che per il momento prenda strade inaspettate. Ho sperimentato il bronzo, ho fatto diverse cose, ma cerco sempre di raffinarmi in quello che ho cominciato a fare. Cioè, io credo molto pure in questo, credo nella capacità appunto di ripetere un esercizio molte volte per farlo sempre meglio, non tanto lanciarsi in progetti nuovi per il gusto di farlo, cioè quello si può fare quando uno ha comunque una pienissima padronanza di quello che ha fatto fino adesso. E io per adesso mi considero ancora uno studente, nel senso che ancora penso di poter tirare molto fuori da quello che ho fatto fino adesso, continuare su questa linea. Ti sei anche messo alla prova in opere a più mani o hai sempre lavorato da solo? Qualcosa a più mani ho fatto, ma purtroppo per me è una sofferenza. Io ho i miei tempi, i miei capricci da quel punto di vista e non... purtroppo lo dico con rammarico perché mi piacerebbe tanto le collaborazioni, qualcosa di tanto in tanto cerco di fare, ma purtroppo no, la vivo un po' male questa cosa, sono un po' un orso da questo punto di vista, irrimediabilmente. Hai sviluppato anche un tuo gusto rispetto a quello che vedi? Hai dei riferimenti estetici anche nelle altre arti? Magari penso alla street art. Insomma, c'è qualcosa che ti piace molto e che ti ispira a volte? Street art sicuramente è una delle manifestazioni artistiche più genuine, inteso nel senso che comunque l'arte contemporanea oggi segue delle regole e appunto uno o si conforma oppure c'è qualcuno che è capace comunque di rispettare queste regole e di produrre qualche cosa di buono, però in genere è un discorso molto noioso, secondo me, l'arte contemporanea in genere, non per i frutti, ma proprio per il modo in cui va avanti, insomma, il modo in cui si manifesta. Quindi l'arte contemporanea per me non è un punto di riferimento valido. Io almeno per me dico, cioè, diciamo che io le mie ispirazioni sono quasi esclusivamente dall'arte classica, se non addirittura arcaica, qualcosa del Rinascimento, così, però appunto canoni molto, molto fissi, idea di bello molto centrale, proporzioni sono assolutamente protagoniste. Perché ho un'idea, anche se vuoi un po' tra virgolette scientifica, dell'esistenza del bello, nel senso che comunque secondo me è una verità biologica, quando appunto persone che non hanno studiato arte, proporzioni, anatomia, sono capaci di riconoscere la bellezza in una persona, allora lì significa che noi abbiamo già un codice scritto non so, nel DNA, che ci detta alcune regole che esiste in qualche modo, anche se noi non ne abbiamo contezza, però è un meccanismo in atto che funziona in ogni momento. Per cui a chiunque se propone una scultura che rappresenta una figura umana perfetta in tutto, ma con un femore anche di pochi centimetri più lungo, e chiunque è in grado di percepire che c'è qualcosa, questo significa che noi comunque sia rispondiamo a delle regole biologiche che noi possiamo negare quanto vogliamo con opere fantastiche. Nel Rinascimento appunto si sono inventati colli lunghissimi, teste piccolissime, però la verità è che poi ritorna la proporzione ideale in un certo formato e più o meno in tutte le epoche. Questo perché comunque sia noi rispettiamo quelle regole. E a me affascina troppo indagare come funziona e appunto riuscire a rendere bella un'opera con qualsiasi materiale, con il peggiore, con un rifiuto, semplicemente rispettando queste regole, secondo me è la prova che questo teorema esiste. Senti, un'ultima curiosità rispetto a tre fattori, rispetto alla tua opera. La tua opera in che rapporto è con l'aria aperta, con gli spazi espositivi e con il web? Beh, la scultura vive di spazio, quindi sicuramente lo spazio è preferibilmente l'aria aperta, chiaramente. E quindi direi che la scultura, intanto bisogna dire che l'opera d'arte, cioè la scultura è un'opera d'arte un po' particolare, nel senso che dal mio modo di vedere, ma non è che voglio insultare la pittura, io purtroppo la vedo così, la pittura rappresenta una realtà, non la realtà, una realtà può rappresentare qualsiasi cosa su un supporto bidimensionale. La scultura in qualche modo crea la realtà, cioè si manifesta una nuova realtà dal momento in cui nasce una Plasma lo scultura, spazio. plasma lo spazio, diventa addirittura il centro dello spazio se collocata in un certo modo. E questo per me è una cosa bellissima, cioè molto, molto attraente. Quindi quella sicuramente è la centralità della mia vanità, cioè creare un'opera che possa rivoluzionare uno spazio, nel momento in cui esiste, in qualsiasi spazio, già lo cambia, già lo rivoluziona, già esiste una realtà diversa, una delle cose più rivoluzionarie che uno può fare, perché tu già cambi la realtà in qualche modo, anche in maniera più o meno fissa ed eterna, nel momento in cui crei un'architettura o una scultura. Quindi questo è sicuro, insomma, noi degli egizi ricordiamo faraoni e architetti, per dire, insomma, cioè l'immortalità l'hanno guadagnata solo loro con le loro alchimie, che però hanno funzionato sia per il faraone che per l'architetto. E il web è un mezzo, il web è un mezzo con tutti i suoi difetti, e oggi chiaramente non si può farne a meno. Diciamo che non è che mi appassiona il web, anzi, diciamo, è la negazione di tutto quello che ho detto fino adesso, perché Sì. rende immateriale qualsiasi cosa, rende etere qualsiasi cosa. Quindi, però se serve appunto a rendere noto che esiste anche il mondo reale, no, magari il web ha anche la sua funzione.